Copacabana, a Copacabana, la donna è regina, la donna è sovrana. Son tutte dei fragili più, profumano tutte d'amore, c'è come ti sanno baciar, tanto baciar. Laggiù, a Copacabana, a Copacabana, le notti di luna, la donna che s'ama. Ti bacia, ti prende, t'accende, ti stringe, ti infiamma d'amore così. Laggiù, a Copacabana, a Copacabana, ti rubano il cuore, a Copacabana, ti vive l'amore. Copacabana, a Copacabana, le notti di luna, la donna che t'ama. Ti bacia, ti prende, t'accende, ti stringe, ti infiamma d'amore così. Laggiù, a Copacabana, a Copacabana, ti rubano il cuore, a Copacabana, ti vive l'amore.